America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Vediamo subito se riuscite a indovinare chi è questo importante politico americano oggetto di questa satira televisiva. To the mayor of Atlantic City, Lorenzo Lansford, who refused to evacuate, you are a silly, stupid son of a bitch. You disobey me? You disobey one of my orders? Well, screw you, screw your city, and screw all the people that listen to you. I'm gonna come rescue you, and then I'm gonna beat you to death. Because that's the Jersey way. Also, I would like to give a sincere thanks to President Obama for how he handled the situation. Bene, vi ho proposto questa parodia del governatore Chris Christie e una parodia che aveva fatto tempo fa Saturday Night Live. E voi sapete che Chris Christie è un governatore molto colorful, come si dice in America, diciamo colorito. Avete sentito le espressioni non esattamente, come dire, cristalline che ha usato per attaccare il sindaco di Atlantic City. Dopodiché c'è un cambiamento improvviso, se avete ascoltato bene nella voce, in cui improvvisamente Christie diventa delicato, diventa molto suadente e parla di Barack Obama. Ecco, è stato uno dei momenti chiave nelle pre-elezioni americane, perché il governatore Chris Christie, repubblicano, elogiando l'azione del presidente Obama durante Sandy, ha finito con l'aiutarlo contro Mitt Romney. Perché vi ho fatto ascoltare questa cosa? Perché domani Barack Obama si incontrerà con i governatori degli Stati Uniti d'America, sarà una delle cose importanti di questa settimana. L'altra continuerà il dialogo sul disavanzo pubblico, sul fiscal cliff, sul debito pubblico, sul rischio che l'economia americana sta correndo se non si troverà un accordo politico che negli ultimi giorni della settimana scorsa è sembrato in qualche modo sfumare dopo un piccolo momento di ottimismo. Una curiosità, la borsa nel mese di novembre ha chiuso con un ribasso dello 0,55%, però la settimana scorsa ci siamo riportati al di sopra di quota 13.000, dunque un passaggio piuttosto interessante dal punto di vista del superamento di una soglia psicologica abbastanza chiave. Ma visto che la settimana comincia, oggi non vorrei soffermarmi troppo su questioni politiche, su questioni economiche. Vorrei tornare a parlare di cultura italiana in America. Fra una decina di giorni si inaugura l'anno della cultura italiana in America, il 2013, a Washington. America 24. Bene, abbiamo ai microfoni di America 24 una persona che direi è non solo altamente rappresentativa, ma forse la persona ideale per poterci dare un'idea sintetica di quello che è stato, di quello che è, di quello che sarà questo straordinario rapporto culturale fra Italia e Stati Uniti. Lo abbiamo sentito variegato nel modo più assoluto, dalla musica alla moda, dalla cucina all'opera, dalla scienza allo sport addirittura. E dunque con me ai microfoni di America 24 il professor Renato Miracco, critico esagerato. Renato, diciamo le cose come stanno, critico d'arte, curatore e oggi addetto culturale a Washington, direi uno dei protagonisti della preparazione, dell'ideazione di questo anno culturale che sarà il 2013, anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Allora Renato, ricordiamolo, tu sei stato anche a New York alcuni anni come responsabile dell'Istituto Italiano di Cultura qui a New York e ricordo ancora questa mostra straordinaria, il Metropolitan, che avevi organizzato su Morandi. Ecco, sai Mario, il mio background non è diplomatico, anche se adesso ricopro un ruolo diplomatico, ma il mio background è curatoriale. Quindi questo mi ha facilitato e mi facilita quotidianamente nel mio lavoro con le istituzioni museali americane, con i miei partner americani, perché ho quella che è anche la loro visione concreta della realizzazione delle mostre e degli eventi che possono incidere decisamente nelle realtà americane. E quindi nella preparazione di questi, credo che siano circa 150 già in calendario, no? Guarda, mi sembra, in questo momento se ti posso dare questa piccola aggiunta, in questo momento sono 169. Ecco, quindi crescono rapidamente, esponenzialmente di giorno in giorno. Ma ecco, quindi qual è il coté italiano rispetto a quello americano? Perché sono dei punti di contatto. per esempio, perché questi eventi non sono soltanto mostre, naturalmente, saranno conferenze, saranno concerti, saranno... Ma guarda, è anche una cosa che voglio subito sottolineare, che è anche molto dedicato alla contemporaneità. Contemporaneità che vuol dire eventi scientifici, eventi tecnologici, eventi di eccellenza italiana in generale, anche nel campo della medicina, della tecnologia, nei rapporti con la NASA. Quindi voglio dire, cerchiamo noi di esplorare vari tipi di connessioni tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ecco, però, secondo me sì, è fondamentale che bisogna capire che cos'è che l'America ama dell'Italia. No, cioè bisogna, quando ho dovuto programmare insieme ai miei colleghi l'anno della cultura, dobbiamo capire che è la maniera di vedere italiana che colpisce gli americani. Quindi è in questa maniera particolare noi riusciamo a collocare una visione di una cosa in una maniera diversa, da un'angolazione diversa. È questo che attrae gli americani. Ecco, per esempio, come teniamo legate insieme canzoni come Volare con opere di Verdi, con un design di Armani, perché sono sfaccettature straordinarie di quella che è la nostra cultura, che qui ha sfondato. Volare rappresenta un'icona americana di un certo tipo d'Italia. Armani o la nuova macchina o l'opera di Verdi, quest'anno naturalmente è il duecentenario di Verdi, voglio dire, quindi abbiamo più di 20 opere di Verdi nelle Americhe, nelle varie opere americane o accademie americane, fatte sia da giovani che da istituzioni importanti. C'è anche Muti, che a Chicago dirigerà Verdi, quindi Muti dirige Verdi, è una di queste nostre icone dell'anno. Ma anche Verdi viene rivisto, rivisitato anche da piccolissime compagnie musicali o di opere in America, e quindi è questa maniera di rivisitare delle vecchie icone italiane in una maniera contemporanea. Quindi sono sfaccettature, mi sembra di capire, che sono diverse e ciascuna va a rispondere a sensibilità diverse, oppure sono legate da un patrimonio comune, per cui comunque quell'espressione di simpatia e di identificazione col bello e col senso del vivere bene che noi esprimiamo come italiani si ritrova un po' in tutte queste cose. Viene legato insieme a una nuova immagine dell'Italia che si basa su un suo heritage, ma che ha bisogno necessariamente di essere aggiornato quotidianamente. È questo il legame che noi abbiamo. Ecco, poi aggiungiamo l'altra sfaccettatura contemporanea, che è quella della gastronomia, perché insomma c'è stato un decollo non soltanto della cucina italiana ma anche del vino italiano. Abbiamo visto poi il successo che ha avuto un'iniziativa come Italy, che è uno dei posti più visitati dai turisti americani, tra l'altro. Ecco, di nuovo, se dobbiamo cercare un denominatore comune, qual è? C'è oppure no? Oppure ognuna di queste manifestazioni si muove in ordine sparso e va a soddisfare i bisogni ora dell'uno ora dell'altro? Guarda, abbiamo parlato prima di Verdi, l'anno della cultura, ecco, secondo me è come un grande palcoscenico di cui ogni volta tu tiri fuori una tenda, una cortina, e ne ce n'è subito un'altra nuova dietro, e poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora. È come se fosse un palcoscenico infinito. Secondo me questo è il senso dell'Italia nel 2013 come anno della cultura, ma questo è il senso nuovo dell'Italia che l'America scopre ogni giorno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, continuiamo a parlare di cultura italiana, dunque dedicheremo alcune delle canzoni italiane che hanno avuto successo in America, ma vogliamo anche scoprire l'impatto della nostra cultura sugli artisti americani, soprattutto su quelli contemporanei. Madonna, conosciuta anche come Louise Veronica Ciccone, una delle grandi star che si identifica ancora oggi con grande emozione con le sue origini italiane, e di lei ascoltiamo Material Girl. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!